mentre tu lo sai, sempre più lontano la tua nave fila via. Cosa fai cercando al di là della foschia? Seguo il sogno antico dell'umanità, cerco il paradiso, cerco la felicità. Dicono è una terra in mezzo al mare blu, che si staglia verde, bella è l'isola di Hood. Nessuno l'ha mai vista, nessuno sa dov'è quell'oasi di sole, quel reame senza re. Ma c'è una stella in cielo che brilla sempre più e guida il mio veliero verso l'isola di Hood. Cercheremo per l'eternità, oltre l'orizzonte, oltre il sogno e la realtà, finché la vedremo verde in mezzo al blu, elevarsi al cielo, bella l'isola di Hood. E forse è un miraggio o solo un sogno, ma felice è il viaggio verso la felicità. L'odio ed il dolore non conosciamo più, è un posto in fondo al cuore, forse l'isola di Hood. È un posto in fondo al cuore, forse l'isola di Hood.